Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Ezechiele 25:17. Il cammino dell'uomo timorato è minacciato da ogni parte dalle iniquità degli esseri egoisti e dalla tirannia degli uomini malvagi. Benedetto sia colui che nel nome della carità e della buona volontà conduce i deboli attraverso la valle delle tenebre, perché egli è in verità il pastore di suo fratello e il ricercatore dei figli smarriti. E la mia giustizia calerà sopra di loro con grandissima vendetta e furiosissimo sdegno su coloro che si proveranno ad ammorbare e infine a distruggere i miei fratelli. E tu saprai che il mio nome è quello del Signore quando farò calare la mia vendetta sopra di te. Alzi la mano chi non ha riconosciuto queste parole. Certo, si tratta di versetti biblici, ma a pronunciarle è Jules, uno degli irresistibili killer di Pulp Fiction di Quentin Tarantino, uno dei film più importanti e determinanti degli ultimi anni. Uscito nel 1994, Pulp Fiction deve parte del suo successo alla capacità del regista americano di fondere tra loro, amalgamandoli perfettamente, generi cinematografici e narrativi diversi, spesso opposti tra loro, alcuni alti e colti, altri decisamente legati all'intrattenimento. Ogni personaggio di Pulp Fiction rimanda a un genere che Tarantino ha amato. Jules, interpretato da Samuel L. Jackson, rimanda alla cosiddetta blaxploitation. Io adoro il genere blaxploitation, soprattutto i polizieschi All Blacks degli anni 70. Sono i miei film preferiti, densi di azione con atmosfere calde e avvolgenti. Li adoro. Quentin dichiara il suo amore per la blaxploitation, con cui è venuto a contatto negli anni trascorsi a fare il commesso nella videoteca Manhattan Beach di Los Angeles. Un genere che nasce dalla fusione di due termini, black ed exploitation. Il primo, naturalmente, ci fa capire che tutto il cast, dagli attori al regista ai vari mestieranti, sarà rigorosamente afroamericano. Il secondo termine, invece, indica negli States i film di intrattenimento puro, fatti con pochi soldi, ma studiati a tavolino per procurare ingenti guadagni. Ephraim Katz, celebre giornalista e scrittore, autore della monumentale enciclopedia del film del 1979, definisce il genere in questo modo. Film fatti con poco o addirittura nessuna attenzione alla qualità o al merito artistico, ma con un interesse mirante al guadagno veloce, di solito attraverso tecniche di pubblicità che enfatizzino qualche aspetto sensazionale del prodotto. In realtà i film cosiddetti d'exploitation hanno spesso grandi meriti, soprattutto perché mostrano registi costretti a raccontare storie fantasiose con pochissimi soldi e quindi spinti ad inventarsi le soluzioni più ingegnose. Fan di questo genere ce ne sono tanti, soprattutto tra i registi contemporanei. Oltre al già citato Tarantino, nomi come Robert Rodriguez o Joe Dante. La blaxploitation, invece, ha un'importanza capitale nella storia del cinema e non solo. È una vicenda di emancipazione, di libertà, di diritti riconquistati, una parabola senza la quale non esisterebbero molti notissimi registi afroamericani, Spike Lee su tutti. Oggi vi raccontiamo l'incrocio di destini che porta il cinema americano verso il rispetto dei diritti degli afroamericani. Una donna afroamericana, una scopa nella mano destra, uno spazzolone nella sinistra, il volto fiero ma dolente. Sullo sfondo, una bandiera americana. È una delle foto più celebri del XX secolo. Si intitola American Gothic. Vi invitiamo a cercarla sul web, merita sicuramente uno sguardo. Questa foto, scattata nel 1942, è una sorta di parodia di un celebre omonimo dipinto di Grant Wood, datato invece 1930. Il senso di questo scatto è chiaro: denunciare lo sfruttamento e le condizioni dei neri afroamericani negli States negli anni 40, ancora sottomessi, sfruttati, segregati. L'autore di questa foto è il nostro primo personaggio di oggi. Il suo nome è Gordon Parks. Gordon Parks. Gordon Roger Alexander Buchanan Parks, questo è il suo nome completo, nasce a Fort Scott il 30 novembre 1912. La sua vita è quanto di più avventuroso, doloroso ed emozionante si possa immaginare. È una storia straordinaria di riscatto e di rivincita, condotta con la sola forza di volontà. Una forza di volontà enorme. La mia vita è stata come un romanzo. Le mie origini contadine, i primi lutti, le marginazioni, i lavori occasionali che mi sono adattato a fare. Se mi guardo indietro, vedo una moltitudine densa e fitta di eventi che mi emozionano ancora oggi. Gordon è l'ultimo di 15 figli di una famiglia contadina del Kansas. Sua madre muore quando ha solo 15 anni. Fu un evento tragico e inaspettato. E ricordo che in casa trascorsi una notte intera da solo, con la sua bara, il giorno prima del funerale. Fu tremendo. In seguito alla morte di mia madre, mio padre decise di mandarmi via da lì, poiché non si poteva permettere di mantenere un figlio che non fosse in un'età giusta per sostenere lavori pesanti. Non mi dispiaceva l'idea di andarmene da Fort Scott. Il Kansas era squarciato da dissidi e problemi razziali molto forti. Parks viene spedito dal padre a vivere con una sorella maggiore e con il marito. Quest'ultimo però, poco tempo dopo, in circostanze mai chiarite del tutto, lo spedisce fuori di casa e lo informa perentoriamente che non vuole più rivederlo. Per il giovanissimo Gordon Parks inizia una vita da vagabondo attraverso lavori occasionali piuttosto problematici e improbabili. Dormivo in un bus e cercavo di arrangiarmi come potevo. In quei mesi, trascorsi sostanzialmente per strada, ho potuto toccare con mano il razzismo che ancora caratterizzava il modo di interagire con noi neri afroamericani. Parks, da giovanissimo, aveva imparato a suonare il pianoforte. Uno degli impieghi più duraturi che riesce a ottenere in questo periodo è come pianista in un bordello. Non è proprio il massimo per un sedicenne, tuttavia una delle esperienze fondamentali per formare quello sguardo disincantato sul mondo che lo contraddistinguerà sul piano professionale. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times they are changing. A metà degli anni 30, quello sguardo sul mondo inizia ad essere fissato su pellicola. Gordon Parks diventa un fotografo. Le circostanze che lo portano a diventarlo sono abbastanza confuse. Di certo c'è che mentre Parks lavora come tuttofare in un locale per soli bianchi, fa amicizia con una coppia che gestisce un negozio di macchine fotografiche e di sviluppo e stampa. Quando Parks rivela a loro il suo sogno, i due gli prestano una camera. I primi scatti sono totalmente sovraesposti, ma Parks non demorde e grazie all'aiuto e ai consigli dei suoi amici riesce a costruirsi una certa solidità. Questi notano subito il talento del ragazzo, legato soprattutto a una grandissima capacità di sintetizzare situazioni complesse in un'immagine statica. Quel che successe in seguito fu che trovai un impiego rispettabile in un negozio d'abbigliamento. Qui conobbi Mava Lewis, moglie del celebre pugile Joe Lewis, alla quale feci vedere alcune mie foto. Mava mi invitò a trasferirmi a Chicago, dove conosceva qualcuno a cui avrebbe potuto raccomandarmi. Il contatto della signora Lewis si rivela estremamente fruttuoso. Gordon diventa fotografo di moda e ritrattista di signore dell'alta società. È il primo passo verso la stabilità. In rapida successione arrivano le prime mostre delle sue fotografie, la collaborazione come freelance per la rivista Vogue, che gli consente di trasferirsi ad Harlem, i primi libri di fotografie, la collaborazione con Life. È proprio di questo periodo la foto American Gothic, che abbiamo già citato, che fa il giro di tutti gli Stati Uniti. Di questo periodo sono anche alcuni eventi determinanti per la carriera di Parks. Il primo è la collaborazione con alcune case cinematografiche che lo contattano come consulente per sceneggiature che trattino i ghetti e storie di afroamericani. Il secondo evento è forse il più importante. Gordon Parks faceva parte della Farm Security Administration, un ente di committenza fotografica istituito dal presidente Roosevelt per documentare la Grande Depressione. Carl Maidens era uno dei dirigenti e aveva stretto amicizia con Parks. Un giorno, siamo già a metà degli anni 50, Gordon fa leggere all'amico le pagine di una bozza di racconto autobiografico che aveva da poco composto. Maidens si entusiasma e gli promette che una volta ultimato il romanzo lo avrebbe aiutato a trovare un editore. Nel 1963, così, esce The Learning Tree, il bellissimo romanzo autobiografico di Gordon Parks. Exactly where we need to be. Oh, exactly where we need to be. Yeah. Gli anni 60 sono un decennio densissimo nella storia degli Stati Uniti. Così denso che si fatica a credere che siano solo 10 anni. JFK, Martin Luther King, le proteste studentesche, il Vietnam, l'ascesa di Nixon, infiniti altri accadimenti cambiano la società nel profondo. Questi rivolgimenti non possono che investire tutti gli ambiti della cultura statunitense, a partire da uno dei più ricettivi fra questi, il cinema. Il laureato di Mike Nichols viene preso oggi come paradigma degli sconvolgimenti che investono Hollywood, ma di esempi se ne potrebbero trovare a decine. Si possono sintetizzare con il concetto di New Hollywood. Il cinema americano, per anni figlio di una logica produttiva ferrea e molto simile a una catena di montaggio, si rinnova nel profondo, rappresenta inquietudine e ansie delle generazioni più giovani e in fermento, dà spazio a nuove voci, diverse e dissonanti, asseconda registi indipendenti e amplifica il grido di minoranze fino a quel momento silenziose. In questo contesto in ebollizione, Gordon Parks, che con le sue foto da tempo aveva denunciato con forza la condizione dei neri afroamericani, si fa notare per The Learning Tree, il suo romanzo autobiografico che aveva visto la luce nel 1963. Qualche anno dopo la sua uscita, il libro finisce sulla scrivania di uno dei più importanti registi della New Hollywood, un personaggio straordinario che determinerà una svolta fondamentale nella vita di Gordon Parks. Il suo nome è John Cassavetes. Cassavetes è considerato dai libri di storia del cinema il padre del cinema indipendente americano. Non è solo questo. Provocatorio, controcorrente, discusso, il regista americano è stato un intellettuale che ha dato un contributo determinante allo sviluppo progressista della cultura americana degli anni 60 e 70. Cassavetes nasce a New York il 9 dicembre 1929. I suoi genitori hanno origini greche, come si evince dal cognome. Una piccola parte della sua infanzia viene trascorsa proprio in Grecia, un fatto questo che egli stesso riconoscerà come determinante per la sua crescita culturale. Per capire bene chi sia John Cassavetes, è necessario parlare di due suoi film che più e meglio di altri ne rappresentano la visione del mondo. Il primo è Ombre, il primo in tutti i sensi dietro la macchina da presa, girato nel 1960 con gli allievi di recitazione di una scuola che lo stesso Cassavetes aveva fondato. Ombre è stato un esperimento. Forse non sempre felice nel risultato, ma fondamentale per il proseguimento della mia carriera. Mi ha, diciamo, dato un posizionamento nel cinema americano, e non solo, ma soprattutto mi ha creato dei nemici. La cosa più importante per capire bene che tipo di persona sei è avere dei nemici. Ombre racconta una storia di amore interrazziale, cosa decisamente rivoluzionaria e pionieristica per l'America chiusa e retrograda di Eisenhower. Ancora più rivoluzionario, però, è come la racconta. Girato con mezzi di fortuna, raccogliendo denaro tramite una colletta radiofonica, Ombre viene girato in 16 mm, lasciando gli attori tutti esordienti, liberi di improvvisare per tutto il film. Neanche una parola di sceneggiatura viene scritta per creare un film tanto svelto e movimentato, fatto di immagini rubate ai protagonisti che si muovono dentro una New York mai così vera. Tutto il sonoro viene completamente registrato in presa diretta. Il tutto in 6 settimane, tra riprese e montaggio. I critici osannano il film alla Mostra del Cinema di Venezia. Gli allievi e i collaboratori della sua scuola si infuriano perché si sentono sfruttati e lo buttano fuori dalla sua stessa creazione. Ma il suo status autoriale è ormai consolidato. Vattene! Insomma, mi cacci, Certo, come vuoi che te lo dica. Vattene! L'Elliot, digli che non è giusto. Senti, vattene via di qui. Prima che debba fare qualcosa che non voglio. Avanti, fuori da questa casa. Ma perché? Oh, perché mi deve trattare così? Fuori qui, ti ho detto! Il secondo film che descrive bene lo spirito di Cassavetes è Volti. 3 anni di riprese nel proprio appartamento. Camera a mano che indaga lo sgretolarsi di un rapporto di coppia stando a pochi centimetri dai volti, appunto, dei protagonisti. Tra cui la moglie, l'attrice Gina Rowlands. La prima versione dura 17 ore. 17 ore di primi piani, ridotte a 2, che gli fruttano un successo clamoroso. È il 1965 e Cassavetes ormai è il pioniere di un cinema indipendente, liberal, giovane e anticonformista. Proprio in quegli anni, sulla scrivania del suo ufficio arriva un romanzo autobiografico, The Learning Tree, di Gordon Parks. Cassavetes se ne innamora e ritiene inoltre maturi i tempi per un cinema veramente black, che racconti, e nel caso denunci, le condizioni degli afroamericani dal loro punto di vista. È tempo inoltre, secondo Cassavetes, che Hollywood smetta di essere una roccaforte dei bianchi. Prende il telefono e chiama Parks. Da quel libro bisogna fare un film. Parks è lusingato, pensa che Cassavetes voglia girarlo. Il regista di Ombre, però, è perentorio. Sei un ottimo fotografo e un ottimo scrittore. Dirigerai tu, scriverai tu la sceneggiatura. E con il mio aiuto lo monterai tu. Hai contatti, ci penso io. Destini incrociati. Oggi a Destini incrociati vi stiamo raccontando la storia della Blaxploitation, il cinema afroamericano che nasce e cresce negli States all'inizio del decennio dei 70. Prima d'allora, il cinema americano è stato, come buona parte della società civile, praticamente un affare per bianchi. Grazie all'avventurosa vita di Gordon Parks, fotografo e scrittore, e al suo incrocio con il regista indipendente John Cassavetes, le cose cambiano radicalmente. The Learning Tree. Questo è il titolo del romanzo autobiografico di Gordon Parks. John Cassavetes se ne innamora e vuole che il romanzo diventi un film. Non sarà lui a dirigerlo, bensì lo stesso Parks. Cassavetes lavora efficacemente per trovare i contatti giusti. Durante la mia carriera ho conosciuto molte persone straordinarie e con molte di esse sono in debito. John Cassavetes è però la persona a cui devo di più, perché senza di lui probabilmente non sarei mai riuscito ad approdare al cinema. La prima risposta di Parks alle lusinghe di Cassavetes è piuttosto incerta. Il fotografo non pensa che Hollywood sia pronta per accettare un regista nero. Teme di andare incontro a un rifiuto. I due si incontrano numerose volte e Cassavetes lo convince a iniziare la sceneggiatura. È il 1966. Alla fine di quell'anno, il regista newyorkese riesce a far ottenere a Parks un incontro con Kenneth Hyman, boss della Warner Bros. Production. Fu incredibile. Grazie a Cassavetes, io, che fino a qualche manciata di anni prima ero un vagabondo, mi ritrovai seduto faccia a faccia con il direttore di una delle più importanti major degli States. Aveva già letto il romanzo. Mi spiazzò completamente con la sua prima domanda. Mi chiese: quanto pensi di metterci a girarlo? Hyman e la Warner Bros., grazie anche alle garanzie di Cassavetes, in un incontro che dura poco più di mezz'ora, ingaggiano Parks come regista, sceneggiatore e produttore esecutivo. In quell'ufficio della Warner, Cassavetes, Parks e Hyman fanno crollare in un colpo solo una serie di barriere che avevano tenuto i neri afroamericani fuori dal cinema che conta. Per la prima volta sarà proprio un afroamericano a dirigere un film inserito nel circuito mainstream. Parks ripagherà con gli interessi la fiducia accordatagli, aprendo una via che saranno in molti a percorrere. La produzione di The Learning Tree, dalla stesura della sceneggiatura alla fine del montaggio, dura un anno e mezzo. Cassavetes sta vicino a Parks lungo tutto il processo creativo, ma il fotografo si dimostra da subito piuttosto a suo agio anche dietro la macchina da presa. Grande senso del ritmo, occhio allenato dalla fotografia alla composizione dell'inquadratura, grande abilità nella direzione degli attori. Sono tutte doti che Parks mette subito in mostra. Inoltre, per la prima volta, il regista esordiente pensa a un cinema espressamente dedicato a un pubblico di afroamericani, un film nel quale milioni di neri possano riconoscersi e vedere rappresentate e denunciate le sofferenze a cui sono stati sottoposti. Il film esce nelle sale il 7 agosto del 1969. In Italia giunge qualche mese dopo con il titolo Ragazzo, la tua pelle scotta. 20 anni dopo, quando il Congresso degli Stati Uniti istituirà il Registro Nazionale dei Film da Tutelare, l'opera prima di Parks entrerà nei primi 25 titoli scelti. Knock, knock, knocking on heaven's door. Che Parks sia per natura un pioniere lo si comprende qualche anno dopo, nel 1971. È l'anno del secondo film di Parks, quello che a tutti gli effetti determina la nascita del genere blaxploitation. Si tratta del mitico Shaft, il detective. Scritto da un bianco, lo sceneggiatore Ernest Tidyman, editor al New York Times, e interpretato dal duro Richard Roundtree, Shaft è un crime movie dal ritmo teso e serrato, che vede come protagonista un detective, Shaft appunto, spietato e virile. Un action come tanti, con la particolarità che tutto, dagli ambienti alla musica, dalle situazioni ad alcune battute, sono pensati a uso e consumo di un pubblico afroamericano. Il film costa $1,125,000, incassa 12 volte tanto, raccogliendo milioni di fan anche fra i bianchi. Fra questi, ovviamente, Quentin Tarantino. Penso che Shaft sia uno dei migliori polizieschi mai girati ed è la summa del genere blaxploitation. Si tratta di una detective story assolutamente afrocentrica, ha uno humor straordinario e il personaggio di Shaft, con il suo orgoglio black così esasperato, è leggendario. Tarantino omaggerà Shaft con il suo killer Jules, interpretato da Samuel L. Jackson in Pulp Fiction. Sul portafogli di Jules, ad esempio, campeggia la scritta Bad Motherfucker, che non necessita la traduzione. Questa è dichiaratamente ispirata al tema musicale di Shaft, composto da Isaac Hayes, anch'egli afroamericano. Contemporaneamente a Shaft, peraltro, esce Sweet Sweetback's Badass Song di Melvin Van Peebles, tradizionalmente considerato, tra l'altro, capostipite della blaxploitation. Tra Parks e Van Peebles esiste anche una spinosa polemica su quale dei due debba essere considerato il vero iniziatore del genere. Il secondo accusa infatti velatamente Parks di avere copiato dal suo film, avendo girato una sceneggiatura che inizialmente prevedeva un detective bianco in chiave black. Parks, dal canto suo, giura di aver lavorato allo script insieme a Tidyman ben prima dell'uscita del film di Van Peebles. Fatto sta che nell'anno 1971 nasce definitivamente il genere blaxploitation, film di intrattenimento a basso costo, quindi exploitation, con cast all black e pensati per un pubblico afroamericano. Shaft ha due seguiti, Shaft colpisce ancora, del 1972, e Shaft e i mercanti di schiavi, del 1973. Solo il primo viene diretto da Parks. Sono entrambi successi di pubblico clamorosi. Il primo film della saga, nel 2000, entra nel registro dei film protetti dal Congresso degli Stati Uniti, aggiungendosi quindi al film d'esordio di Parks. L'incrocio con John Cassavetes, quindi, e la grande intuizione del più celebre fra i registi indipendenti del cinema americano rendono Hollywood finalmente multiraziale, proprio a cavallo tra gli anni 60 e 70, quando tutta l'America sembra assetata di cambiamenti. Who's the black private dick that's a sex machine to all the chicks? You're damn right. Who is the man that would risk his neck for his brother, man? Can you dig it? Destini incrociati. In inglese si dice portmanteau, in italiano si dice gioco di parole. Il termine blaxploitation fonde i termini black, nero, ed exploitation, parola che indica il cinema americano di intrattenimento realizzato a basso costo. Il cinema blaxploitation nasce negli anni 70, negli States, grazie a Gordon Parks, fotografo afroamericano dalla vita rocambolesca, e grazie a John Cassavetes, regista indipendente americano sensibile ai diritti delle minoranze, che fa esordire Parks dietro la macchina da presa. Dopo l'uscita di Shaft, nel 1971, il genere diventa oggetto di culto. Cassavetes, dopo l'incontro con Parks, di cui rimarrà amico fino alla fine dei suoi giorni, gira alcuni capolavori del cinema off americano. Il già citato Volti, ad esempio, lo splendido Mariti con Ben Gazzara e Peter Falk, la commedia Minnie e Moskowitz, il sottovalutato L'assassinio di un liberatore cinese, tutti piccoli gioielli in cui eccellono gli attori e in particolare la sua musa e compagna di vita, Gina Rowlands. Infine, la consacrazione definitiva. Gloria, una notte d'estate, che vede tra i protagonisti sempre la Rowlands e si aggiudica il Leone d'Oro alla Mostra del Cinema di Venezia. È il vertice della sua carriera, come ricorda proprio l'amico Gordon Parks. Gli scrissi un telegramma il giorno dopo la premiazione per congratularmi con lui. Ci sentimmo al telefono qualche giorno dopo. Era felice, ma sentivo che qualcosa in lui non andava. Pareva arrendevole e svogliato. Una personalità complessa come quella di Cassavetes, sempre controcorrente, sempre pronto alla provocazione, ricettivo, poliedrico, talentuosissimo, non riesce ad avere un rapporto sereno e pacificato con la vita. Una tensione fluttuante, talvolta sottile, altre volte divorante, lo ha sempre segnato, spingendolo progressivamente sulla strada dell'alcolismo. Poco dopo il trionfo veneziano, Cassavetes scopre di avere la cirrosi epatica. Continua a lavorare, ma la sua vena creativa e battagliera si inaridisce. La malattia peggiora anno dopo anno. Il 3 febbraio del 1989, a soli 59 anni, John Cassavetes muore. Non solo Gordon Parks, ma tutto il cinema newyorkese, da Scorsese a Woody Allen, da Jim Jarmusch a James Gray, fino a Spike Lee, riconoscono il proprio debito con il grande regista di ombre. La carriera di Gordon Parks procede per qualche anno in maniera lineare. Dopo il seguito di Shaft, arrivano un altro poliziesco, The Super Cops, e il biopic biografico Lead Belly, dedicato al musicista afroamericano Huddy Ledbetter. Poi la decisione di concludere la sua carriera di regista. Il cinema non è più un mezzo con cui Parks si sente a suo agio. In un certo senso, avverte come terminato e assolto un compito. Dopo aver girato Shaft sentivo sempre meno stimoli. L'occasione che John Cassavetes e la Warner mi avevano dato con The Learning Tree era stata per me una sorta di missione: abbattere le barriere razziali che ancora affliggevano Hollywood. Dopo averlo fatto, sentivo conclusa la mia parte. Parks, se così si può dire, appende la macchina da presa al chiodo in via definitiva nel 1984. In quell'anno gira un TV movie che di fatto è il suo ultimo lavoro. Continua con la sua fotografia, collaborando con Life Magazine e attraverso mostre e libri. Nel 2000 torna a calcare un set in occasione del remake del suo Shaft, realizzato da John Singleton. E poi c'è la letteratura. Parks scrive romanzi e racconti che ottengono tutti ottimi riscontri di pubblico e critiche, segno della sua poliedricità e della sua abilità narrativa. Il suo talento non trascura la musica. Da sempre appassionato di blues e musicista a tempo perso, nel 1989 trova la forza di comporre le musiche per una sorta di balletto dedicato a Martin Luther King. Parks muore nel 2006, all'età di 93 anni. Da tutti riconosciuto come una delle figure di riferimento per il processo di emancipazione dei neri afroamericani negli Stati Uniti. Il suo cinema è amato, omaggiato, istituzionalmente difeso. Se un regista come Spike Lee è stato a cavallo tra i 90 e il nuovo millennio uno dei directors più importanti del cinema americano, gran parte del merito va a Gordon Parks e al suo incrocio con John Cassavetes. Penso che tutti noi registi afroamericani dobbiamo ringraziare Ragazzo, la tua pelle scotta di Gordon Parks. Quello è il film che ha segnato una svolta determinante e ha permesso ai neri di occupare finalmente ruoli importanti nelle grandi produzioni hollywoodiane, prima esclusivamente appannaggio dei bianchi. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. La redazione vi aspetta su destiniincrociati.it. Ora Destini incrociati è anche un libro. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.